Bippo il satellite e la nave stellare. Bippo il satellite stava volando sopra un asteroide congelato quando udì due voci gridare. Attento! Un disco di metallo gli passò vicino fischiato e lui lo acchiappò con il suo braccio meccanico. Lasciami! Protestò il disco. Che sei? Chiese Bippo. Io sono Ico, il disco robotico che si usa nel hockey su ghiaccio e parlo tutte le lingue. Bippo volò sull'asteroide congelato e vide Yuri e Nikita, i gemelli Sputnik. Salve gemelli, che state facendo con quei pezzi di vetro e metallo? Li abbiamo trovati, fluttuavano nello spazio, spiegò Yuri. E li stiamo usando per fare il nostro gioco favorito, aggiunse Nikita, colpendo Ico e facendolo volare sul ghiaccio. Vennero interrotti da una chiamata radio di Nonna Computer dalla stazione spaziale Base Luna. Nonna a Bippo, emergenza, chiamare. La radio tacque. La nonna è stata interrotta. Vado a vedere che succede. A più tardi, gemelli. Alla base le luci lampeggiavano e le sirene suonavano a distesa. Una nave stellare girava in circolo intorno alla base. Base Luna è stata attaccata. Devo affrettarmi. Bippo prese velocità, ma si fermò quasi subito con uno scossone. Mi hanno sparato! Si lamentò, mentre la nave si avvicinava e i motori non volevano saperne di accendersi. Aiuto! Non posso fuggire! Ma la nave non sparò e si limitò a sorpassarlo, parlando una strana lingua. La vecchia Zeke e la navetta spaziale arrivarono. Zeke, mi hanno sparato! No, Bippo, non è vero. Sei finito nel campo di forza invisibile di Base Luna. Nonna non ha potuto avvisarti che era attivato, perché la radio era fuori uso. Zeke rimorchiò Bippo e volò a Base Luna. I droidi medici lo ripararono e poi andò a trovare la nonna, che stava parlando con il brigadiere dell'incrociatore da guerra. Lasci la faccia a pezzi, signore. Ha urtato un autobus spaziale e le nostre antenne radio e ha attaccato Bippo. L'ho polverizzo in un attimo con due siluri al fotone. No, brigadiere, rispose la nonna. Ancora non ha sparato un solo colpo. Dobbiamo scoprire cosa ci fa qui. Oh, ciao Bippo. Ho intercettato la voce della nave stellare. Ascoltate. Iodre, Geburk. Iodre, Geburk. Questa lingua mi è sconosciuta. Se riuscissimo a sapere cosa dice. Bippo si ricordò di Ico. Io conosco uno che ci può aiutare. Bippo volò fino all'asteroide congelato. La partita di hockey era a metà e Bippo fece sentire il nastro a Ico. Parla spandalese. Dice, ma dove sono finiti? Devono pure essere da qualche parte. Chissà a cosa si riferisce. Non sembra proprio che voglia distruggere Base Luna, disse Bippo. Ico, vieni con noi per farci da interprete. Certo, Bippo. Ma Nikita si arrabbiò. Non abbiamo terminato la partita. Vuoi prendere in affitto il nostro Ico la prossima settimana? Mormorò Yuri. Spiacente, gemelli, ma si tratta di un'emergenza. Bippo prese Ico ed entrambi volarono nello spazio. Presto, seguiamo, ordinò Yuri. La nave stellare stava volando verso Base Luna. Bippo l'affiancò e Ico le parlò. Dice che è stata colpita da un meteorite e ha perduto gli occhiali. Le dispiace per il danno che ha provocato, ma è un po' miope e non riesce a vedere dove sta andando. I gemelli arrivarono. Bippo prese i loro bastoni da hockey e li unì con due nastri metallici. Ecco le due metà degli occhiali della nave stellare. La nave era così felice che Ico non riuscì a tradurre tutti i suoi ringraziamenti. La nave stellare volò a casa e Ico e i gemelli, piuttosto tristi, tornarono sull'asteroide congelato. Una settimana dopo, Pippo ricevette un pacco dalla nave stellare. Erano due bastoni da hockey. Salve, noi siamo Molly e Bill, i due bastoni da hockey robotici. E mentre i gemelli stavano a guardare, schizzarono sul ghiaccio e cominciarono a giocare a hockey. Le macchine stanno prendendo il sopravvento, disse triste Nikita. Pippo rise. Niente paura, anche tu puoi giocare con loro.